Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio ad Andrea Ferro e chiaramente buona Pasquetta, una Pasquetta che continuiamo a vivere in questa atmosfera per così dire innaturale. Anche oggi notizie e testimonianze sull'emergenza, emergenza che decliniamo in questo programma sul comparto dei trasporti e della logistica. Tanti gli ospiti oggi collegati e li ringrazio per aver accettato il nostro invito in questa giornata per molti versi particolare, come dicevo. Partiamo con Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Donati, buongiorno e buona Pasquetta. Grazie, altrettanto. Allora, come raccontiamo da settimane, l'autotrasporto è pesantemente provato dall'emergenza, traffici calati mediamente del 70%, ci sono enormi problemi di liquidità, i committenti annunciano pagamenti anche a 12 mesi. Nei giorni scorsi i rappresentanti della categoria hanno incontrato in videoconferenza la ministra De Micheli, che ha annunciato misure di sostegno ad hoc, misure che saranno contenute nel prossimo decreto. Donati, in particolare, cosa avete chiesto alla ministra? Ci aspettiamo delle misure più propriamente mirate al nostro settore, che riguardano innanzitutto la necessità di avere dei pagamenti da parte di chi utilizza il servizio di autotrasporto, dei tempi di pagamento certi. Non si può continuare ad andare avanti in questa maniera. In questo senso la ministra si è impegnata a mettere nel decreto di aprile un provvedimento, diciamo, che dovrebbe tutelare questa tipo di esigenza. Ovviamente ci aspettiamo che la cosa venga mantenuta e soprattutto che poi funzioni davvero, perché l'esperienza ci dice che non sempre quello che viene, diciamo, messo nelle norme poi diventa regola vera nella vita concreta, che è quello che invece serve. Ecco, cosa raccontano gli autotrasportatori in queste ore, in queste settimane? Vengono affrontate quotidianamente mille difficoltà in più rispetto a quelle, come dire, solite, che derivano dalla situazione che è, insomma, dalla difficoltà a utilizzare in alcune situazioni i servizi igienici o a prendere il caffè o a ricevere, diciamo, trattamenti non sempre adeguati nei punti di carico e di scarico. Donati, sempre nei giorni scorsi, nonostante il tentativo di bloccare tutto da parte dei paesi dell'Est, che hanno usato strumentalmente l'emergenza coronavirus come pretesto, il Consiglio d'Europa ha approvato il primo pacchetto mobilità. A questo punto, per il via libera definitivo, resta solo il secondo passaggio al Parlamento. Diciamo che ora davvero la strada è spianata, Donati. Ha vinto la linea che, secondo me, è quella della maggiore responsabilità, cioè quella di indirizzare questo settore su un versante sempre più, come dire, di maggiore professionalità, e anche, diciamo, imporre alcune tutele degli operatori, evitare situazioni estreme di concorrenza sleale. Insomma, c'è una serie di norme che riguardano dal distacco alla la possibilità di rientrare da parte di chi fa trasporti internazionali, comunque di restare fuori non più di 4 settimane, la possibilità di dormire, fare il riposo normale, diciamo, non obbligatoriamente in albergo o in abitazione, ma anche utilizzando all'interno della cabina se utilizzano delle aree di sosta con determinati requisiti di sicurezza e di comfort. E questo, per esempio, nel nostro paese apre un problema di insufficienza e inadeguatezza di aree di sosta per, diciamo, da mettere a disposizione degli autotrasportatori. È un compromesso tra tutti gli stati della UE, ma, diciamo, ci sembra che sia un risultato molto positivo. E devo dire, appena qualche mese fa era difficile pronosticare di arrivare all'approvazione di questo pacchetto mobilità. Claudio Donati, segretario generale di Assotir, grazie e buona Pasquetta. E altrettanto a lei. Dicevamo prima della situazione di grave sofferenza nella quale versa il mondo dell'autotrasporto. Una conferma inequivocabile arriva dai dati delle immatricolazioni dei veicoli industriali. A marzo, impicchiata il mercato dei mezzi sopra le 3 tonnellate e mezza, meno 40,5% rispetto al marzo 2019. Lo dice l'aggiornamento periodico di Unrae, ed è con noi il presidente della sezione veicoli industriali di Unrae, Franco Fenoglio. Buon pomeriggio e chiaramente buona Pasquetta anche a lei. Buongiorno, buongiorno e buona Pasquetta a tutti. Allora, Fenoglio, questo crollo delle immatricolazioni si riferisce, come dicevo, a marzo. Potremmo dire è solo l'inizio. Esatto, siamo all'inizio, ma abbiamo già previsto un calo importante nel trasporto. Il trasporto sicuramente era in difficoltà fin da prima problema del coronavirus, ma pensare che già a marzo avessimo potuto consuntivare un meno 40% era veramente inaspettato. Chiaramente siamo tutti molto in difficoltà, tutte le case madri del ricco industriale hanno dovuto chiudere gli stabilimenti, siamo tutti in emergenza e sicuramente siamo molto preoccupati per le nostre reti che in questo momento stanno soffrendo, stanno lavorando perché chiaramente devono dare servizio ai trasportatori. La prima volta ho visto sinceramente che questa è l'unica soluzione che abbiamo, che finalmente i trasportatori sono stati messi un po' in evidenza, gli autisti e tutte le persone del trasporto, abbiamo tutti i nostri venditori che sono chiaramente a casa, ma tutte le officine che stanno lavorando e cercando di dare un servizio, naturalmente con la massima sicurezza, però devono lavorare chiaramente anche a rischio e un po' a pericolo, ma lo stanno facendo con grande motivazione di tutte le marche e di tutti i veicoli industriali. Il governo ha adottato una serie di misure, ne arriveranno altre, come si diceva prima, con il decreto di aprile per sostenere il comparto. Ma ci sono molte speranze sul fatto dei primi timidi di accenni all'aiuto al trasporto, la moratoria che è stata fatta sicuramente darà per 6 mesi un po' di fiato alle aziende, anche se noi chiaramente come case madri dovremo spostare tutti i pagamenti di 6 mesi, ma questo chiaramente è qualcosa che facciamo ed è anche normale in questo periodo così difficile, però poi dopo bisognerà vedere cosa capiterà dopo. Io spero veramente che siano solo i primi provvedimenti e tra l'altro che siano anche veri, che siano anche le promesse vengano mantenute e non sia come quello che è successo, non vorrei mettere in evidenza in questo momento un aspetto negativo, ma ancora gli incentivi, se ci si ricordiamo, nel trasporto riferiti al 2017-18 devono ancora essere pagati e io spero che i prossimi provvedimenti aiutino veramente a spalmare questi debiti nel tempo, perché nell'immediato c'è sicuramente il problema della cassa, ma poi non so chi potrà comprare ancora dei veicoli industriali. Ricordo tutti che abbiamo un parco circolante obsoleto e vecchio con 13 anni di anzianità, i trasportatori già non ce la facevano prima a comprare veicoli industriali di nuova generazione. Se non si farà qualcosa di veramente forte, strutturale, come da anni che chiediamo, il trasporto italiano, i trasportatori, le nostre reti andranno al collasso. Abbiamo visto in questi giorni quanto sia importante avere un trasporto forte. Onoriamo il trasporto, onoriamo gli autisti, onoriamo i nostri meccanici di officina che in questi giorni, in queste settimane hanno dimostrato che in silenzio hanno continuato ad andare avanti nonostante le grandi perdite di bilancio e il fatto che non abbiano avuto soddisfazione negli anni. Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae, grazie e buona Pasquetta. Buona Pasquetta a tutti. Il nostro sguardo sul mondo della logistica si sposta dalle strade ai porti, un altro fronte di questa emergenza. In linea con noi da Ravenna, e lo ringrazio, il presidente di Assoporti Daniele Rossi, che è anche il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale. Buongiorno e, come ripeto a tutti, buona Pasquetta. Grazie a lei e a tutti i suoi ascoltatori, altrettanto. Allora, cosa sta succedendo nei porti? Sta succedendo un fenomeno strano che, a fronte di una significativa diminuzione dei traffici, perché l'impatto è drammatico, non pesante, quindi ci si potrebbe aspettare un momento di rilassatezza in banchina, invece ci stiamo preparando a dover affrontare una situazione di crisi nel sistema logistico, perché ci sono navi in arrivo, l'emergenza in Cina è sicuramente rallentata in modo importante e quindi le attività sono riprese, le navi stanno partendo, quindi ci sono carichi importanti in arrivi che si andranno ad accumulare a quelli che già sono arrivati, che non sono ancora stati completamente smaltiti per questo rallentamento di tutto il sistema logistico. Quindi si prepara una situazione di grandissima difficoltà che richiede la necessaria riapertura dei magazzini merci presso le aziende, dei comparti di ricevimento delle merci, perché diversamente avremo una potenziale situazione di crisi di tutto il sistema. Ecco, parlava prima del calo dei traffici, è possibile quantificarlo? Guardi, dipende dai settori. Direi che mediamente qualcosa che va dal 30 al 50%, tranne naturalmente alcuni settori come quello delle crociere, dove parliamo di una diminuzione totale, di un azzeramento, non di una diminuzione. I tempi della ripresa sono incerti, ma nel mondo della logistica che scenari si ipotizzano? Guardi, ci sono in questo momento due scenari che io ritengo ragionevoli. Uno è che questa emergenza sanitaria possa terminare intorno al mese di luglio e quindi soffriremo ancora per un paio di mesi, cioè per tutta l'estate, per ritornare ad una ragionevole normalità o comunque un processo verso la normalizzazione che si potrebbe concludere a fine anno o nei primi mesi dell'anno prossimo. C'è uno scenario molto più pesante, uno scenario che prevede, che immagina che invece questa emergenza possa durare fino a fine d'anno. Sino a fine anno questo vuol dire che il sistema si spegnerebbe completamente, quindi riavviarlo sarebbe molto più complicato, ci vorrebbero almeno altri 4 mesi, quindi si potrebbe parlare di ritornare a regime a un anno da oggi, naturalmente con impatti economici devastanti. Daniele Rossi, presidente di Assoporti, grazie e buona Pasquetta. Grazie mille, arrivederci. E ora lasciamo l'emergenza sanitaria per trasferirci in un'altra emergenza strutturale, o per meglio dire infrastrutturale. La scorsa settimana ad Albiano, al confine tra Toscana e Liguria, il crollo di un altro ponte, per fortuna solo un ferito lieve, ma un'altra immagine della precarietà della nostra rete stradale che fa il giro del mondo. Da tempo a soffrire di scarsa manutenzione sono le strade provinciali e comunali in particolare. Ne parliamo con Michele De Pascale, che è il presidente di UPI, l'Unione delle Province Italiane. Buongiorno, buona Pasquetta anche a lei. Grazie mille dell'ospitalità e tantissimi auguri anche a lei. Come dicevo, la cronaca ha riproposto la fragilità delle nostre infrastrutture, De Pascale. Sì, in realtà dispiace sempre di dover utilizzare questi fatti di cronaca per, diciamo, portare all'attenzione temi politici, però penso che farlo sia responsabile in questo caso per evitare che possano verificarsi danni più gravi in futuro. Questo è un paese strano, è un paese dove tutti siamo alla ricerca di 25, 30, 40, 50 euro da mettere in tasca e nessuno invece si occupa della sicurezza delle strade che percorriamo o, faccio un altro esempio, delle scuole dove vanno i nostri figli. Io spero che anche eventi come questo possano servire per far capire che in questo paese c'è un bisogno disperato di manutenzione alla rete viaria. Noi abbiamo stimato solo come comparto delle province, anche a seguito degli errori che sono stati fatti nel passato, più di 1,5 miliardi di interventi esclusivamente per manutentare, riparare o sostituire ciò che va assolutamente fatto. Recentemente il MIT ha stanziato per le strade provinciali quasi 1 miliardo di euro. Ecco, queste risorse potrebbero significare un vero impulso a favore della ripresa di quella cosiddetta fase 2? Ma noi, col ministro De Micheli il dialogo è aperto ed è anche positivo, nel senso che il ministro ha sbloccato immediatamente tutte le risorse che erano state stanziate. Quindi in questo senso, se si volesse da domani ripartire, sarebbe possibile immediatamente portare avanti ciò che è già finanziato, ma anche attingere a questo elenco di ulteriori opere già in larga parte progettate e che basterebbe finanziare e magari anche sburocratizzare in alcuni casi per poter poi partire in pochissimo tempo. Michele De Pascale, presidente di UPI, Unione delle Province Italiane, grazie, buona Pasquetta anche a lei. E termina qui questa puntata un po' più lunga del solito di Hashtag Autotrasporti. Ora veramente non c'è più tempo a disposizione, con questo programma ci risentiamo lunedì alle 13.45. Grazie per l'attenzione, lo ripeto anch'io, buona Pasquetta da Andrea Ferro. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.